pioggia di finanziamenti europei mista a un diluvio di leggi regionali. Per i ladri di vento le condizioni da Roma in giù sono ottimali, col paradosso che restano fermi fino a 7 anni, come è successo in Molise, i progetti trasparenti. È la Puglia l'Eldorado delle rinnovabili, 1151 i megawatt effettivi a fine 2009, un'esplosione favorita dalla legge regionale del 2008 dichiarata incostituzionale a marzo. Il procuratore capo di Bari, Antonio Laudati: l'interferenza di tipo criminale può essere a livello individuale, imprenditoriale, societario, o può essere da parte della criminalità organizzata. Si parla di un mercato per le autorizzazioni per l'installazione degli impianti. Ci sono delle indagini in più regioni, c'è stato indagini anche all'estero e un'attività di coordinamento che ha fatto anche la Procura Nazionale Antimafia. Questa delle energie rinnovabili è il business del futuro. Folla di reati in una giungla di leggi, un quadro che, se favorisce i furbetti, rischia di allontanare gli imprenditori seri, increduli talvolta di fronte alle cosiddette tangenti comunali. Le elenca l'avvocato Francesco Prato dello studio Bonelli Erede Pappalardo. Un comune pugliese ha richiesto l'acquisto di 2 auto per la polizia locale di un defibrillatore. Che con l'impianto eolico non c'entrano molto. Assolutamente nulla. I comuni lo chiedono alle imprese come compensazione dal disagio per la costruzione di queste pale eoliche? Sì, altre volte semplicemente vengono fatte come volontà di avere denaro o altro tipo di bene. Una forma quasi di tangente comunale. Sì, ci sono anche delle richieste che sono un po' borderline. Il comune chiedeva una somma una tantum di 150.000 euro. Tuttavia era prevista la facoltà per il comune di chiedere alla società l'assunzione di personale indicato. Siamo in Calabria. Attualmente sono 11 gli impianti fermi in attesa di sentenza del TAR o del Consiglio di Stato, secondo i dati di Italia Nostra. Ancor più gravi sono i danni per gli impianti bloccati da Terna, analizza Simona Viola, avvocato dell'Associazione per le Energie Rinnovabili. Da un anno e mezzo quasi il 30% dell'energia eolica potenzialmente producibile in Italia non viene dispacciata, cioè gli impianti vengono fermati perché risulta insufficientemente capiente la rete di trasmissione nazionale gestita da Terna, che non è stata capace in questi anni di osservare il ritmo di crescita delle rinnovabili. Quel che è certo è che in Italia il vento soffia e fa sempre il suo giro. Italia in controluce. A Firenze è ormai pronto il nuovo sistema dei parcheggi. Lo racconta per noi Ubaldo Cianciulli. A Firenze la sosta cambia. Dal 1 novembre il capoluogo della Toscana vivrà una vera rivoluzione per quello che riguarda i parcheggi e l'accesso al centro storico. Innanzitutto ci sarà una rigida cura dimagrante per le ZCS e le ZTL. Le zone a sosta controllata, che negli ultimi 10 anni hanno affettato la città, passano da 14 a 5 e le zone a traffico limitato da 5 diventeranno 2. Sono queste le principali novità della cura Renzi per risolvere un'equazione. Oltre 100.000 auto circolanti ogni giorno con 80.000 posti per la sosta, ma sentiamo l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Massimo Mattei. Ci sarà un grandissimo cambiamento che va nell'ottica di una semplificazione. Abbiamo pensato quindi di rendere più accessibile ai cittadini anche la comprensione della sosta nella nostra città. A Firenze c'erano ZCS quasi incomprensibili, perché da quante ce n'erano spesso i residenti si trovavano quasi a un percorso a ostacoli durante la loro vita quotidiana. E praticamente ogni zona sosta controllata corrisponderà al quartiere d'appartenenza. Firenze si è divisa in 5 quartieri. Per quanto riguarda la ZTL, c'erano 5 ZTL. C'era la centrale, che era la A, e la BC della DLE, che li facevano da corona. A questo punto abbiamo deciso di unificare la B, la C, la D e la E in un'unica ZTL, anche perché c'erano casi incredibili di persone che erano nelle ZTL confinanti che per raggiungere un altro luogo dovevano fare il giro completo di tutta la città. Quindi per circolare nel centro storico e per parcheggiare in città i residenti dovrebbero incontrare meno difficoltà nel passare da una zona all'altra, poiché queste saranno più estese. Ma l'altra grande novità riguarda proprio la possibilità di parcheggiare abitare in una zona della città diversa da quella di residenza, ad esempio per raggiungere il luogo di lavoro oppure i genitori che non vivono nello stesso quartiere. Sarà possibile pagare un canone mensile o annuale per parcheggiare in un'altra circoscrizione. Ascoltiamo ancora l'assessore Massimo Mattei. Una persona, invece di avere la carta lavoro che permetteva di parcheggiare vicino al luogo di lavoro pagando una determinata cifra, potrà acquistare la possibilità di parcheggiare in una nuova area di ZCS diversa dalla propria. Nella propria sarà sempre gratuito, cioè chi sta nel quartiere 5 potrà parcheggiare in tutta l'area del quartiere 5 in modo gratuito. Se mettiamo caso una persona che sta nel quartiere 5, lavora nel quartiere 6, lavora in via Europa, acquisterà la possibilità di parcheggiare nell'area di sosta numero 3. L'area di sosta numero 3 che non è soltanto via Europa ma è anche altre zone, quindi c'è una facilitazione anche in questo. E non sarà soltanto per chi lavora ma sarà anche per persone che hanno altri tipi di necessità, assistenza ad anziani, convivenze, come meglio credono. Con 40 euro avrà la possibilità di parcheggiare in un'area di sosta diversa dal proprio. Avrà la certezza di poter poi usufruire di questa, di questo affitto e di questo noleggio, perché in effetti si paga per un servizio, però poi dovremmo avere la certezza di poterlo avere. La possibilità di parcheggio non c'era neanche prima. Si paga la possibilità di parcheggiare in un'area, non è detto che, cioè, secondo me il parcheggio ci sarà, perché poi alla fine si trova con la stessa difficoltà che si trova il parcheggio a Firenze. Comunque resta un pagamento preventivo per un servizio che non è garantito, 50 euro al mese per il centro e 40 euro per le altre zone. Ma la giunta di Palazzo Vecchio ha dato il via libera anche alle cosiddette strisce viole. In questo caso il residente potrà pagare un canone annuale per un posto auto esclusivo sotto casa. Per ora ci sono state diverse richieste ma inferiori alle aspettative, per cui se ne dovrebbe riparlare l'anno prossimo. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, radio24.it su podcast per scaricare queste altre trasmissioni, per comunicare con noi il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, quello su Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it. domani alle 6:30 naturalmente su Radio 24.